Che una bella radio, Bene, va? Un buon boy. Si gira così. Ecco. Infatti stavo parlando con Gigi Vulcano e Massimiliano, un po' qua. Dai, sta lasciando così, che va benissimo. No, va bene, va bene. Va benissimo, bella, chiara e forte pure, per cui tranquillo. Va benissimo, fra. Ecco. Già va bene, già va bene. Importante che si senta bene, poi del resto non conta, come dicono, e senti, non conta, conta la radio. Beh, insegnare può variare, ma quando la radio è bella pulita è forte e tranquilla, per cui la radio è quella che intesa, almeno si riesce a capire ciò che sta dicendo. Ok, va bene, fra là, auguroni, buon Natale a te in famiglia, ci sentiamo fra. Sto combinando qualche cosa qua. Ciao, già ci sentiamo fra. Ok, dai, auguri anche a te e famiglia, ci ascoltiamo per le prossime, divertiti. E buon anno se non ci sentiamo. Ok, altrettanto, ciao. Ciao, ciao. solo noi, capito? Solo noi. E avanti, mio hermano. Ok, buona tarde, Zecchio Operador Massimiliano Bulldog, Cucci qua a nord della Sardegna Italia. Allora non me la metto. Ma ti dici di hai pusati che me li entra la dentro. Ciao Gianni di Novi, buonasera a Giattia. Io prima la compagnia di loro, poi ho dovuto lasciare, sono andato a prendere mia figlia là. E quindi adesso sono risalito su a casa e niente, diciamo, là. Ho sentito di nuovo gente, sono rientrato per il QSO. E non ci fa un giro, aspetta 5 minuti già, fregate. Ah, la città del Carraggio, buonasera. Buonasera signori circolare, se volete un po' di coraggio, ditemelo. Noi ne abbiamo tanto queste zone, di garraggio. E ciao io, Sandro, ben ascoltato. Oh Gianni, dinamite! Ma non stai uscendo, sei carico però, arrivare questo segnale. Un segnale del genere tu, perché ti ho sentito altre volte modulare con sì, vicino a te, e segnale bassissimo, questo caspita supera, infatti è per quello che lo stavo dicendo, tu sei molto carico, sì, allora sì, e vedi, io sto uscendo liscio invece, sto uscendo neanche 7 watt là. Thank you. a chiedermi l'amicizia su Facebook. Ti ha dato che sono tutto chiuso, ti ha chiesto qualcosa, lo sa. No, però è già da un po' di tempo, vabbè che ci entro poco e niente, è già da un po' di tempo che diciamo che nella pagina ci sei sempre, o Massimiliano, però non mi dice se sei connesso o meno, capito? Quindi adesso non lo so se è qualcosa che ho combinato io o che cosa, ma è un mezzo casotto quel programma lì. Lascia perdere, nel senso, lascia perdere nella pagina che ci sei sempre, ma io non ci entro mai in chat, capito? Perché quando entro in chat mi arrivano 3.000 messaggi da uno, dall'altro e non devo stare lì a scrivere a nessuno, capito? Io quando devo mandare un messaggio lo mando in privato, in modo che non lo legga nessun altro se non che la persona che lo sta mandando, hai capito? Tutto lì. Allora, c'è la Gigi, c'è la Claudia, ce l'hanno tutte a sassi la mia amicizia e non mi sembra strana questa cosa che non te l'ha fatto più inviare. Ma io ti ho cercato, Gianni, ma non ti ho trovato. Che foto hai messo tu? Sentirsi, dai, l'importanza se si anticipa e per il resto va bene. Franco, sei in ferie? No, negativo, stanotte. Ah, ho capito, anche stanotte ti tocca. Va bene, va bene, va bene, poi. Va bene, capito, va bene. Ma tu non ve la vuoi giù a prima santo? No, negativo, qui a Liniche dentro. Ah, ho capito, ho capito. No, credo che, siccome conosco un altro Franco io che lavora giù a Fiume Santo, siccome io ci ho lavorato per 2 anni lì al carbone, anzi tu alle ceneri più che altro, alle ceneri e al gesso ho lavorato, e siccome conosco un Franco, un capo macchinista, ho detto ma magari non sia lui. No, no, negativo, negativo non sono io lavoro qua a Linic, ho lavorato qualche anno fa, soltanto pochi mesi però ci sono stato a fare gli assorbitori, queste cose qua, poi ci siamo andati via, non sono tornato più. Ah, positivo. No, niente, noi caricavamo le ceneri, capito, le ceneri della centrale, là, e le portavamo lì al porto, e le caricavano le navi e portavano in Grecia. Registrato il break. Sì, sì, già lo so dove caricano le ceneri, ho capito dove. Avanti il break. Esatto, roccia in curva. Ahia, ecco, ci siamo. Signori, bianco la parte mia. La Gannuccia, ma se ne è saputo. Usavano fare qualche bidoncino, esempio di una persona ci cascava, capito? Modificavi un attimino e ogni tanto ci cascava, vabbè, ma sempre diciamo a titolo di divertimento, tutto lì. E bene qua. Vabbè, altri tempi erano Sandro qui, altri tempi. Prima quando entrava uno nuovo subito era a fargli bidone. Cazzo, ma era un divertimento, per carità, vabbè, io mi ricordo soltanto le pazzie che ho fatto in quei periodi lì. Le pazzie, per carità, ma sempre senso buono, logicamente. Qualcuno se lo ricorda, già se lo ricorda che ero vicino a lui. E forse anche Franco se lo ricorda, dove c'era quel cantiere che c'erano i silos dell'impianto di bettonaggio. Sai che nel silos c'è una salita per caricare, diciamo, le vasche dell'impianto di bettonaggio, e io me ne salivo lì in macchina. Addirittura una notte avevo piazzato la direttiva e vada allucinante, te lo ricordi Gianpaolo? Anch'io siamo venuti anche a trovarti una notte. Ecco, io Franco già ero puntato un po' questo, non mi ricordavo bene, infatti anche tu già eri venuto lì. Mica, voi sei stato anche alla Grindi. Sì, positivo. Già me le ricordo, vedi che me le ricordo. Era quel periodo ci divertivamo, a Sugayamai. Ok, dai. Avanti, ma ci vediamo. Erano altri tempi, diciamo che in quel periodo la radio li accendevi per divertirti. Ah, ma gira, la radio è passata a Pappalatti. Sì, Pappalatti, no, per carità. E diciamo che sono quelli che a volte quando uno parla, che fa la battuta, vuole che l'accetti la battuta sua e magari la tua non l'accetta, e questo non è giusto anche, che le battute si fanno per ricevere e anche per darle. Sì, ma c'è troppa gente polemica, capito? Troppa gente che polemica, è permalosa più che altro, è permalosa, capito? E vabbè. Prima tu accendevi la radio e non c'era un canale che non era occupato, capito? Quindi più ne hai e più spingimi. Allora poi più giri e non prendi nessuno. Ecco, io mi ricordo prima, se ti dovevo mettere la portata e ti dicevo io sono, ti sto mettendo la portata, perché tu mi hai fatto questo, punto. Allora, pigliala come di voi. Adesso si cazzava e pigliava e si andava. Altri tempi, diciamo che prima si divertiva nel senso bonario, capito? Facevi per dire il bidone, e dopo alla fine dei conti logicamente usciva fuori dicendo ma non mi hai riconosciuto, guarda che sono, cioè nel fase bonario logicamente fino a un certo punto, oggi logicamente è totalmente cambiato, è tutto un altro paio di mani, che vabbè comunque. Andiamo avanti, signori, vi devo lasciare che ve lo visite, se coincida più tardi, se no le prossime. Ciao Massimiliano, ciao Franco, vuoi bene Massimiliano? Positivo, dai, ciao, buona serata e buona continuazione di giornata, dai. Ci sentiamo domani se coincide per farci gli auguri, e va bene così, ok, riprendi Giampa. Ciao Sandro, ci sentiamo. No, quello qui ci sentiamo, quello qua è... Yeah. Comunque ciao Sandro, buon tutto, dai, ce la ascoltiamo magari domani per gli auguri. Ciao ciao. E diciamo già fa, meglio così, è meglio che ci sia un po' di persone in più, cioè alla legge trasmittente, però perché siamo due gatti, almeno prima come accendevi la chiacchierata te la facevi, o scherzando di una cosa o dell'altra, ci passava il tempo, mentre adesso a volte stai ore attaccato vicino al bagaglino che non c'è nessuno. Thank you. ancora anch'io. Non si è fatto un rapido giù mai. Sì, sì. Lo posso immaginare. difetto se lo tiene, perché sono tutte le cose così. Però a volte compri una cosa che non è di marca e ti dura più di chilo di marca. Thank you. se tu monti la batteria buona anche a Città Mercato costa beh, in effetti hanno un problema della batteria, hanno le layout, lo vai su una piazza batteria di marca in piazza e buonanotte, un altro bar 80-90 euro, dai 90 euro è a posto. Thank you. quasi le 7 meno 20, 7 quasi. E vado giù un attimino, dai. Se no, lo butto un po' qua, sono più di due ore. Ce ne ascoltiamo, se non ci sentiamo, tanti auguroni con le feste, con tutto, e famiglia, ce ne ascoltiamo per le prossime. Ciao, Giappone. Ah, va, sta andando bene già qua. Qua, vabbè, siamo sul 45, sì, 9.30, e radio, la rete è buona. Non ho capito bene cosa hai detto. Capita qualche volta in mezzo, non succede niente, però si capisce bene adesso la tua modulazione. E probabilmente è anche dal microfono. Non sono più unici, sono i fasciati. Stavo guardando il segnale, qua c'è, prova a vedere. Ho mezzo, quasi 9 sei, quasi 9. Ma va bene, la radio, quella che c'è sulla radio, qui sia buonissima la radio. E infatti è buona, tranquilla e pacifico, già. Ok, Giappa, dai, sono entrato perché ti ho sentito, stavo spazzando, ho sentito, e ti faccio gli auguri, buon Natale, buon principio di anno, a te in famiglia, e ci risentiamo, Giappa, auguroni ancora, alla prossima, Giappa, già, chiudo. Grazie, Giovanni, anche a te, sentito cosa ha detto quel politico, no? Quando c'era Berlusconi, lì ci avete fatto fiori Berlusconi che prima fiorivano le rose, adesso invece che ci monti fioriscono solo i crisantemi. Ok, ciao, ci sentiamo, ciao Giampaolo.